10. Non stai uscendo, chi è? Non stai uscendo del radio, chi è? Non stai uscendo del radio. Niente da fare. No, no, non stai uscendo del radio. Non so chi sei. Marco, chi sei, Marco? Marco, ti lasciano al canale 10? Cambio. Non stai uscendo del radio. Ma chi è che non sta uscendo del radio? Tu? C'è qualcuno che non sta uscendo del radio? Segnale 8. Ma chi è? Giuseppe? Che vuoi, Giuseppe? E chi è? Cosa ha toccato? Cosa ne so io? Ci va bene, l'ultima volta l'ho sentito, adesso non c'è più. Non lo sento del radio, vale. Stanno parlando, cosa fischi? Ah, cosa hai detto, Vali? Non ho capito, lui è. Come mai stavo uscendo l'altra volta, adesso non sto uscendo più. E io ne so meno di te, non lo so cosa ha toccato, se c'ha qualcosa nel microfono, non lo so. Claudio! Chi è? Ma buona tarde, buonasera, dai, che sono? Che cazzo fischi? E cosa ne so chi c'è, Cla? Non sente nulla qua, sono a te il setto. No, ma dico, non lo sai dire, sono Daniele, invece di bruciare. Dove sei? Ma la verità non sentiva nessuno, poi sei uscito tu. Qua sono in via Mosca, dai, via Londra. Ah, vicino a casa. Ehi, c'è Alghero, sto parlando con Alghero, ma non esce di radio, capito? Per quello te l'ho detto. Siccome sentivo gente, sentivo sbatterare altri canali, non capivo chi fosse. Allora stavo fischiando perché poi è rimasto zitto, non sentivo più nessuno. Comunque, sei disturbato, scusatevi, No, non hai disturbato nessuno. Sì, c'è proprio zero di QRM, perché non sente niente. A me manco l'ago, mi si muove, fatto preoccupato, ho detto, ma cosa pigliata sta radio, sorda diventata, poi ho acceso anche gli altri, non c'è QRM da nessuna parte. Ehi, Acla, è che infatti pensavo le cose senza antenna, che cavolo è successo la scena, è che ero secoli che non le stavo accendendo lì. No, non c'è un filo di QRM, c'è proprio zero. Vero, sia qua che anche le altre radio. Non capisco. Ci deve essere qualche temporale in arrivo, senza proprio di QRM a zero, non lo so. Ma vediamo. Vedi, stoppa. Va bene. E per il resto, Cla, tutto a posto? Tutto a posto, Daniele, tutto a posto. La vita da pensionato sto facendo. In pensione c'è perché qua? Ehi, da novembre sono andato in pensione, 30 novembre. Dai, la ora, dai, ti riposi. E anche troppo mi sto riposando. Un problema che non so più cosa fare. I saluti mandati in anno, nel periodo di Natale. Sì, a posto. Lampa, lampa. E tu, tutto ok, sempre là, sì. Ma sono tedesco. Ancora non sei riuscito a metterci il piede fisso là. Ma bravo, ma deve essere un problema IPS però, deve essere un problema IPS. Quando l'hai fatta la domanda? È un casino, non lo so. A breve, poi ne sono fuori che ci mancava una domanda, ora al capo e faccio la domanda, vado lì, niente da fare, a questo sono andato a un fortello, quando è? Avanti ieri, e mi ha detto che adesso si sbloccava, tra 15 giorni, entro 15 giorni volevo il bonifico, adesso aspettiamo. Quindi è un problema loro, praticamente, IPS. Ma deve essere di sì, Cla, si presume di sì, perché non ero l'unico con questo problema. Anche perché dopo la prima tranche che loro ti erogano, si blocca in automatico e se non fai quella richiesta tramite il capo, vai all'INPS per lo sblocco, tu non ne vedrai mai di questi soldi. No, ma perché se uno ha già fatto tutto, cosa deve fare? Ma te ne sei andato con la... sulla testa, si può dire, perché devi fare lo sblocco, si chiama Naspicom, che sarebbe lo sblocco dei tuoi soldi, perché no te la bloccano. Non esiste una cosa del genere. Io quando ho presentato tutta la documentazione ha fatto tutto il patronato, capito? Compresa anche il colloquio sia IPSE che come si chiama, ufficio di collocamento. Quindi che altra documentazione devi presentare? Allora Soniano, c'è una nuova, cla. Poi me l'ho tolto un sussidio tra virgolette che ti dava l'INPS dopo la disoccupazione, che era l'ASI, e adesso tranne integrata nella domanda del modello REI, un altro casino. Ma tu sei disoccupazione speciale, perché? Ma a te che te l'ha fatta la domanda di disoccupazione? Te l'ha presentata direttamente il patronato, il CAF, o hai fatto tutto tu? No, no, tutto tramite il CAF io faccio, claro, non faccio niente da privato, perché se no non è tolgo piede. Beh, una volta che hai presentato la domanda, che hai fatto il colloquio, che poi devi andare, mi sembra, ogni 3 mesi all'ufficio di collocamento per fare sempre questi colloqui, patto, non so di che cosa, eccetera, non ci sono problemi. Lo so, infatti il primo colloquio l'ho già fatto già all'ufficio di collocamento. Un casino stanno facendo, un casino. Non lo so, ma mi informo per vedere questa cosa, come ti faccio sapere, perché c'è un amico al patronato, capito? E a me mi ha fatto tutto lui lo stesso, però non mi ha assolutamente detto niente di queste modifiche che ci sono state. Infatti sono andato al campo e gli ho detto, ma ascolta, cos'è questa domanda che devo fare? Sì, perché ci vuole la resistare, l'abbiamo presentata, anche questa. Adesso vediamo, dai, poi sono andato anche allo sportello lì, all'Ips, a casa, tutto a posto, ho fatto tutto a posto, sono da 2 mesi che sono tutto a posto. E come si chiama questa cosa che glielo chiedo domani? Guarda, si chiama Naspicom. Naspicom, mi sembra che sia, Naspicom. Naspicom, perché la disoccupazione è in Aspi. Sì, c'era l'Aspi, la mini Aspi all'epoca, adesso si chiama tutto Aspi. E tu cosa hai fatto? L'Aspi hai fatto? Papa. Aspi. Oh, anche poi sarebbero sempre cose che ti hanno lavorato e ti restituiscono. Vabbè, certo che sì. Non mi informo domani a vedere. Capito? Perché anche mio cognato, praticamente, cioè la moglie di mio cognato, ancora non ha ricevuto niente, quindi voglio capire se questa cosa mi stai dicendo tu, questa Naspicom, bisogna fare per avere i soldi puntuali, capito? Una mattina chiamo a questo amico che ho al patronato a vedere. Se hai ricevuto la prima tranche. Vabbè, domani mattina mi informo comunque, così dico a mio cognato, perché la moglie non ha ricevuto niente ancora, più o meno anche lei praticamente dal primo di dicembre. E vabbè, tramite patronato già fanno tutto loro online. Sì, quello sì, però se vuoi maggiori spiegazioni, vai lì allo sportello, ti perdi una mattinata, perché io sono andato alle 9, mancanza alle 8 e mezza, se mi ha lasciato il bambino a scuola, mi sono fermato lì e ho preso il numero alle 9, perché c'era la fila fino a fuori. È un casino, lì c'erano lì. Io non sono andato a presentare la domanda, c'è tutta la mattina lo stesso. È uno schifo, è uno schifo. Quindi solo la mattina chiamo al patronato a vedere se c'è da fare qualche integrazione di altre domande, glielo dico, così la fa. Brava. Senti un po', la dico, ma in forma che vedi la dico. No, io mi faccio. Gappa, no, perché la mia è in Aspi. lui c'è questa NASPI, deve fare questa integrazione, buono lo so. Non mi senti più? Ehi, che aspetta? Sto il guardando un beato adesso, sono qua, a Sant'Orsola, alla Prestella, dai. Ehi, ehi, ma sempre fuori strada c'hai? Adesso c'ho l'altro. Quale? Non più quello che ha suonato? No, quello che ha suonato. Come ne ho visto uno, una poco antenne sopra la cappotta, c'ha tre antenne, tipo pick up come quello che avevi tu. Ehi, ehi, aspetta il telefono. Vabbè, se avesse attaccato qualche filo dal microfono. Se avesse attaccato qualche filo dal microfono. Non mi sta, siccome è al telefono Giuseppe con me, mi stava dicendo se hai qualche microfono di quelli da poter attaccare. Io non ci posso andare ad Alghero. Sicuramente si è staccato qualche filo, tirando magari. Oh, cos'hai detto, Daniele? Ria. No, non va bene quello lì, Daniele, di quelli a spinotto, capito? Sì, sempre acceso, sempre, oddio, ogni tanto l'attacco. Ciao, Daniele, dai, che ti sto perdendo anch'io, ci sentiamo alle prossime, stammi bene. Saluta la signora, gappa gappa. Ciao, Daniele. Cazzo, ma non ti va a Vagogna, cazzo, la torre di controllo che non arriva a Sorso, cazzo, Gesù Maria. Cosa? La torre di controllo che non arriva a Sorso, cazzo, che vergogna. A Sorso? Ma che è successo, Daniele? Era a Sant'Orsola. Meglio ancora. Se non arriva, sono problemi suoi, non sono problemi miei. Sentivo basso, era in mezzo al palazzo, ma già quando era dentro Sassi arrivava basso. Io ho sentito che è vicino a Sorso, non è a Sant'Orso. Sì, c'è cammino a Bogo, era vicino a Sant'Orsola. Io, e allora, com'è? E come deve essere? Già va bene. Mi sto usando il 140, c'è anche Valerio, come sto andando il radio? Bene? Sì, già va bene, ma letto Michi. Allora, sempre manette. Forse l'ha abbassata troppo, boh. No, va bene così. Non devi fare la recci, già va bene. Allora, molto regolata, questi sono i posi, insomma, i parametri più o meno che dà la radio. Non è che la puoi tirare a manettone, c'ho i picchi, c'ho a 20 watt, i picchi a 50, lo devo dire ancora. Ma lei come mi ascolti tu alla chiedo? Ehi, ehi. Va bene, era anche troppo tirata la Massilia. Gappa gappa, già va bene, già va bene. Ehi, già va bene. Ciao Valì, non so se mi ascolti. Ma tu gli altri radio non li usi più, sempre che 48 c'hai, no? Ho detto che c'hai due belle radio, usi sempre 48. Non se non mi ha sentito. Ho detto di sì, ho detto che usa sempre 48. Gappa gappa, va bene. E tu qua stai usando il Cobra? No, è Cobra questo. E guarda, un serpente è questo. Sì. Aluminio. Ehi, quello è. Già va bene, non c'è problema. Ottimo per la truppa. Sì, va bene, sì, questo io sono a 9 megawatt adesso. E infatti vai bicchi in modulazione da 9.10 a 9.30. Questa è bella la radio. Questa va bene. Ma non. C'è rotto il difetto che fanno tutti i magno, quello del frequenzimetro, hanno rotto le scatole. Lo so che è una bella radio, l'ho avuta, però. Sì, però, io c'ho il pulsante, basta eliminarlo, e ti rimane solo il numero dei canali. Acceso. L'importante è funzionare bene, poi se la prende. Capito tutto lì. Avanti, Valerio. Esce. Ma poco fa adesso ti sei calato di davvero di corde vocali, Madonna santa. Ma fai un controllo, Valerio. Fai un controllo un po' più accurato, perché io avevo delle placche allucinanti e è uscito un accesso, non riuscivo anche a parlare. Non ho dovuto togliere, quindi stai attento che queste cose così vanno controllate bene. Avanti. avanti, Massimiliano. Aspetta invece, a proposito di corde vocali, che mi bevo un goccettino d'acqua, aspetta un attimo. Va bene. Eccomi qua, là. Faccio qualche altro passaggio, poi preparo la cena, che non c'è Daniele. Sono sempre la regia, sì. Dai, è uscito alle 4:30, l'abbiamo portata qui. La vestita a maschera e l'ha portata alla Festicciola, oggi è giovedì grasso. C'è tutta la classe, capito? Le danno le frittelle, queste cose. Rientrano verso le 8. E anche al Tramite c'è la festa carnevale dei bambini. Fatti vedere ad esempio la ritrico accogliendo i coriandoli. Cosa fai? Cosa faccio? Non la mando. È andata tutta la classe e non vanno. Vabbè, io sto bene da solo, io cavi dopo mi faccio un bel paninotto, carne di cavallo, che si abbiglia. Eia, già va bene. Gappa. No, sta aperto il coso, l'ho appena abbassato la quelle cose che ti avevo letto, portata a normalità, ma no, lì è a metà, quindi già sta spingendo, da 30, quasi 30 watt, ora 60, 70 modulati, già sta andando bene, la maschera è così, voglio andare la roba, è troppo spinta, invece così una via di mezzo. Io intanto sto usando l'M60, quello più vecchio di tutti, quindi già lo sai di carriera, magari con mio spinge di più, che più nuovo, non lo so. Va bene. Ascolta, ma l'hai mai provato tu il 140, il 440 con l'SM20? Sì, c'ho anche l'adattatore. Non mi piace la modulazione, è troppo... C'ha solo acuti, troppo acuti c'ha, mentre il 60 va meglio, perlomeno per la mia voce, vedi? Cosa che non hai provato tu invece con... Manco pensato ci abbiamo a fare con la prova, porca miseria l'altra. Sono tutti i rigosi che ci diciamo tutti i giorni. Io ho l'SM20 con l'adattatore da Icoma Kenwood, proprio fatto apposta per fare quelle prove. L'SM20 è un bel microfono. Per quello te l'ho detto, magari quello lì andava bene, con quale ero con 14. Aspetta che mi sta chiamando Giuseppe. Oh, Marcellia, che c'era Giuseppe, non usciva di radio, gli si è attaccato un filo dal microfono. E da dove si è attaccato? Non l'abbiamo saldato? E dal connettore, perché ha tolto tutto da lì, che ha messo il tavolino nuovo un po' più grande, insomma, ha sistemato tutto e adesso come ha staccato il microfono, l'ha tirato e si è uscito tutto. Come un filo si è attaccato, è quello proprio della modulazione. E c'è solo l'importante. E beh, non riesce a guardarlo qual è il filo staccato, che deve saldarsi. E io uscendo sto. Oh, Rosolito. Oh. Scusa, che era il telefono, chi è? E io uscendo sto. E già stai uscendo. Buonasera. Chi è l'altro? Buonasera, non so neanche chi è entrato, boh. Sento basso. Francesco, non riesce a saldarsi questo filo lui? Sì, non trovava il saldatore, domani lo fa, adesso non ci vede. Stefano, avanti Stefano, Massimiliano. Ciao Massimiliano, buonasera. Ti ascolto 3-4. E cosa vuoi che faccia io? Che tu sei un po' bassino. Lo so, purtroppo l'antenna che ho non risuona qui, diciamo, e quindi mi devo accontentare di quello che ho. Vabbè, l'importante è ascoltarci, da. Bene, va così, guarda se mi ascolti meglio. Cappa. Lecca lecca, vuoi sentire? Ah, che bella. Come sei attaccato? Appena, da Mino. Non si vede. 7-9, arrivi. Vabbè, è bravissimo. Penso siano una trentina di watt. Ehi, ce l'ho anch'io, se ne sta ridendo sullo scaffale. Cazzo, in più, Freddy, sono 30. Si è baciato da 9:10 a 9:30. Vedo che Andrea 7:09. No, è Gai, non è Gai, è Gui. Gui, no, già va bene, sei Gui. Quanto non sia Gai. C'ho anche un piccolo PV131. Adesso me lo sto guardando, non ho mai acceso. E io c'ho il coso, il... quello... si chiama, come si chiama quella malattia di Massimiliano? Sì, 747, no? Sì, 747, sono tanti nel watt, tanto il 231, ma a me no, non è a valvole, quello che ha detto a un baracchino base che dava pochi watt, che va bene. C'è un piccolo B33, non sarà molto, ma... Ah, quelli piccolini, quante pacchette ce le avete? Sì, ancora una scatolata ce l'ho fare. Ancora una scatola. Quello siccome non ha interruttore, però collegandolo all'accensione del baracchino, a un base, messo dentro, lo fai diventare da 5 watt a 30 watt. No, no, ce l'ha l'interruttore, ce l'ha. No, io ne avevo uno che non aveva interruttore, come attaccavi l'alimentazione, il rosso e il nero si accendeva la lucetta rossa. Capito? E quello attaccato, ho fatto un bel lavoro in un base messo dentro, collegato all'accensione dei 12 volt della radio. È favoloso perché è piccolino, capito? Io lo so, è piccolo, c'è un pacco di sigaretta, sì, davvero. Chi ce l'ha avuto? Anche un telefonino. Anche un telefonino, cos'è così piccolino? Va bene, va bene. Avanti, Massimiliano. E io vado, ho staccato, che non c'è bisogno. Beh, signori, io mi preparo la cena, là, che poi vado a lavorare. Se no, si fa tardi, è un casino, là. Ciao Stefano, ciao Claudio, e chi fosse in ascolto, là. Lascio acceso qua, però non riprendo più, là, che preparo la cena. Ci sentiamo, ciao, buona serata, buona continuazione, ciao. Ciao Massimiliano, ti si mangia i cani, ciao. Di cucciucci ti si mangia, c'è cane e cavallo. Gappa. Mi hai dato quell'input, ma ce ne diamo, porca miseria. Ci abbiamo pensato a fare quella prova. Accidenti, tre cose fatte in fretta sempre. Boh, vabbè dai. Ci aggiorniamo, buon carica, buon tutto, se ce la fai a più tardi, se no. Buon lavoro. Eia, eia, ciao, ciao, ciao, ci sentiamo. Ehi, vabbè, ormai è andata là. Eia, i cani, un paio di gucciucci, ciao se. Ciao, ciao, buona serata, ciao. Veramente gli stoppa. Eia, eia, eia. Oh se, mi chiami un secondo? O ti chiamo io, ti disturbo? No, fai come, chiama. Aspetta. Q10. Un attimino Natalie, sono al telefono, buonasera. Hai scucciato? Aspetta un attimo Natalie che sono al telefono, già riprendo subito. C'è qualcuno sul 10? Allora? Vabbè, no, ho provato ma non ci riesco, beh. Domani mattina lo chiamo direttamente. Natalie, che sciogliere. Vabbè, Massimiliano, accorto direi il tuo barino. Già mangiato direi. Massimiliano.